solo una cura, mi so che tu sei. Lei sacude botte e mi metti die. Se te sbarco a faccia, faccia ti capie. Che te in gran bastardo, in delinquente da me tre parole. Figgio de naiole, su quattro ma me ne va due balle. Te ne tu in discoteca e ti me fai tu becca. Stavolta non te la lascio passare. Ho pigione sui, te a dubbia e me ma. Se ti me vieni anche un po' più vicino. Parli a voce bassa, non ti vuoi capire. Ule in un mondo, te strunzi come ti. Te spacchieva faccia, te rompieva il cuore. Pigia quella porta, e stammi a larga, dammi tre parole. Figgio de naiole, son quattro ma me ne batto e balle. Te ne tu in discoteca e ti me fai tu becca. Stavolta non te lascio passare. Ho trovato istruzione per farci a me ma. Se mi te vengo ancora, voglio vicino. Tra un mar sua muffa e mezzo di ghetti, ho un amico stufa di di sempre desci. Sparisci da me vita, vanni a da via o cu. Quella l'è l'uscita, tipo na. Dammi tre parole, figgio de naiole. Su quattro ma me ne va. Beh, tu becca, stavolta non te lascio passare. Te piggio a masqui, con queste mie mani. Se ti me vengo ancora, un po' più vicino.